I figli di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e bentornati ai Figli di Enea, storie di nuovi italiani. Questa sera parliamo di televisione e di ragazzi, perché è ripartita dal 15 di maggio la serie Scam Italia, quarta stagione, che potete vedere in streaming su Team Vision e Netflix. Parla di italiani di origini straniere, di seconde generazioni, per questo ce ne occupiamo. Nella seconda parte parleremo anche con uno degli interpreti, ma ora siamo collegati con Ludovico Bessegato, sceneggiatore e regista. Buonasera. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie a lei per dedicarci un po' del suo tempo per raccontare che cos'è questo progetto, cos'è questa serie che è arrivata ormai appunto alla quarta stagione. Se capisco bene, è un remake di una serie norvegese e la protagonista è una ragazza italiana musulmana che fa parte di un gruppo e vive la sua adolescenza cercando una sintesi tra le istanze della famiglia di origini straniere e la cultura con la quale lei sta crescendo, con l'Italia. E questo è proprio il tema della nostra trasmissione, perché sempre più vediamo che l'Italia sta cambiando anche grazie a persone che hanno origini straniere e quindi alla sintesi di culture diverse. Ma vorrei capire un po' più da lei come è arrivato a questo progetto, che ormai insomma sta andando avanti e anche un tempo di Covid-19 ci riporta un po' a una realtà degli adolescenti, dei ragazzi, per fortuna un po' diversa, no? Assolutamente. Allora, diciamo che tutto nasce, come ha detto bene lei, a un progetto non italiano ma norvegese in origine, che è questa serie che si chiama Scam, che d'altra parte è una parola norvegese che significa vergogna, e che è stato impostato dalla televisione pubblica norvegese ormai 5 o 6 anni fa, con l'intento di sperimentare nuovi linguaggi per cercare di attrarre i giovani nella televisione pubblica. Una serie molto diversa da tutte le altre serie per ragazzi che si sono fatte fino a quel momento, molto più cruda, molto più realistica, decisamente scorretta e con l'intento proprio di rappresentare i ragazzi per come questi si sono raccontati e non per come li si vorrebbe educare o come li si vorrebbe vedere. Il nostro remake è, fortunatamente per noi, stato uno di quelli che ha avuto poi più apprezzamenti e più successo, tanto da essere la sesta serie italiana più conosciuta nel mondo. Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Padova. Faccio il preside in un istituto tecnico commerciale. Rispetto al discorso che fate, io volevo dire che nel mio istituto ci sono 12 ragazze con il burka, il velo, non so neanche bene come si chiama. E è una cosa che io da preside non so come gestire, perché premetto che non sono razzista, anzi ho fatto anche militanza nella sinistra adesso. Ma queste ragazze sono delle cose che non si possono vedere in una scuola pubblica, laica, vengono con il loro velo, non se lo tolgono mai, se vanno chiesto la stanza per pregare, io non... E ci riporta proprio all'Italia contemporanea con la presenza di questi ragazzi di seconda generazione. Lei si è avvalso nella scrittura anche della collaborazione di Sumaya Abdelkader, che è un'amica dei Figli di Enea, un'amica di Radio 24, sociologa, scrittrice, anche consigliera comunale a Milano, e ha origini straniere e è musulmana. Assolutamente. Diciamo che una delle caratteristiche principali di questa, del formato della serie, è che ogni stagione ha come protagonista una persona diversa. Nelle prime tre stagioni noi avevamo già conosciuto il personaggio di Sana, ragazza appunto musulmana italiana di congenitori di origine tunisina. Nella quarta stagione Sana diventa proprio il perno del racconto, diventa la protagonista. E quindi era necessario da parte mia informarmi il più possibile e cercare di fondare il più possibile sulla realtà tutto quello che avrei raccontato di Sana e del suo mondo, per cercare di offrire un ritratto il più possibile verosimile e non stereotipato di, appunto, del mondo di una ragazza di seconda generazione di religione musulmana in Italia. E in questo Sumaya è stata una guida e un aiuto fondamentale. Abbiamo trascorso molte ore insieme a casa sua con le sue figlie, che hanno grosso modo l'età della protagonista, con il marito Abdallah, con i membri della comunità, loro amici. Sono stato con loro a 2 giorni ai campeggio al campo dei giovani musulmani italiani in Trentino, dove sono stato 2 giorni a chiacchierare, a incontrare, a fare domande, e ho creato attorno a me, oltre a Sumaya, una serie di un piccolo gruppo di ragazze musulmane che si sono dimostrate fondamentali nel darmi di volta in volta consigli tramite messaggio su certe scelte o meno che avrebbe poi fatto il nostro personaggio. No, per favore. Silvia, la musica. Non Silvia, per favore. Dai. No, ogni volta vuole stare davanti e vuole mettere la musica. No, per favore, la metto io. O io o Sana. In generale è vero che il condizionamento che noi riceviamo dai media, dal cinema, dalla televisione e soprattutto dalla stampa tradizionale ci porta ad avere nei confronti del mondo musulmano un certo tipo di pregiudizio o di stereotipo. E io avevo voglia di vedere in qualche modo questo stereotipo, di vederlo rovesciato. Ero curioso di sapere se la mia speranza, che per un po' è rimasta appunto soltanto una speranza, cioè esiste un mondo musulmano progressista in Italia? L'ho cercato e l'ho trovato. L'ho trovato, e questa, se vogliamo, è stata non la sorpresa, ma insomma la conferma di una speranza, ovvero l'esistenza di un numeroso e folto gruppo di persone che sono di fede musulmana, ma sono totalmente compatibili con i miei valori, e non solo, sono persone da cui si può imparare molto in termini di spiritualità e di approccio alla vita non totalmente fondato sul materialismo, sull'accumulo di beni, di affetti. E invece è stato molto interessante per me parlare con Sumaya, con suo marito, con i ragazzi di temi universali, e capire che dietro alcune scelte che superficialmente si può associare alla semplice coercizione o al semplice obbligo, cioè mettere il velo perché si deve, sposare soltanto musulmani perché si deve, fare digiuno perché si deve, dietro a tutto questo ci sono degli argomenti più interessanti e profondi di quelli che io immaginavo, che certamente non mi hanno portato a convertirmi, non era quello il tema, ma mi hanno sicuramente fatto fare delle riflessioni, mi hanno colpito e mi hanno permesso di rendere più complesso il mio sguardo su questo fenomeno, e spero poi di avere trovato anche il modo di riportarlo nella mia serie con la stessa complessità, in modo da permettere a più persone possibili di poter vedere, di poter guardare al mondo delle seconde generazioni, in particolare di religione musulmana, con senza tutti quei pregiudizi che purtroppo spesso ci portiamo dietro. Ma tornando alla serie, mi ha incuriosito moltissimo, visto che siamo a Radio 24, la presenza importantissima nella serie di una radio, Radio Svaldo. Di cosa si tratta? In realtà è un elemento tutto sommato abbastanza laterale nella serie, però il fatto che molti della stampa lo notino significa che evidentemente crea una specie di clash no? di generazionale, perché l'ultima cosa che si pensa che dei ragazzi possano fare oggi è giustamente fare la radio, che viene la radio è un mezzo antico, per quanto molto ascoltato, no? Ma antico, esatto. Certo. Cioè certamente uno si ha tutto l'immaginario Radio Freccia, le radio libere degli anni 70 e tutto quanto, e devo dire anch'io la pensavo così. La verità è che facendo i sopralluoghi nel liceo dove è ambientata la serie, che è il liceo Kennedy di Roma, dove appunto io spesso faccio giri per capire quali possono essere i luoghi in cui ambientare certe scene, a un certo punto vedo questa radio e chiedo ma c'è una radio al liceo? Ma veramente, ma i ragazzi sanno che cos'è una radio? Come no? E ho scoperto che effettivamente, non che sia probabilmente una cosa così comune, però nel liceo pubblico in cui abbiamo girato c'era una sala radio che non trasmette su frequenze, su onde medie o FM, insomma è una web radio, ma è piuttosto appunto funzionante e seguita. E quindi viva la radio, viva Scam Italia, grazie a Ludovico Bessegato per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi di nuovo. Grazie. E noi ci fermiamo brevemente, ma subito dopo rimanete con noi perché parleremo proprio con uno degli interpreti di questa serie che potete seguire, come dicevamo, in streaming su Team Vision e Netflix. A tra poco. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, questa sera stiamo parlando di Scam Italia, una serie televisiva, la sua quarta stagione. In questa quarta stagione, come ci spiegava il regista, la protagonista è Sana, una ragazza italiana di origini straniere musulmana. E abbiamo in questa seconda parte il piacere di avere in collegamento da Parigi uno degli interpreti, Mehdi Menskar. Benvenuto, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito, grazie mille. E Mehdi interpreta Malik, questo ragazzo amico di Sana, per il quale lei ha un'attrazione. Mehdi, lei è nato a Reggio Calabria, ma mi raccontava che è di Treviso, anzi in realtà è cresciuto tra Treviso e Montebellone. Ora è a Parigi, ma parliamo subito di questa serie. Qual è stato per lei la cosa che l'ha coinvolta di più quando le hanno presentato la possibilità di interpretare questo personaggio? Il fatto di ricevere questa opportunità vuol dire molto, perché ovviamente io sono nato in Italia e ho sempre sognato di fare questo mestiere dell'attore e so che magari le opportunità per attori di seconda generazione sono ancora un po' poche, ma giustamente quando vedo che una serie come Scam mi dà questa opportunità, mi sento, come dire, molto felice e c'è tanta gioia, quindi sì, direi così. Che personaggio è Malik? Malik è un giovane ragazzo italiano di origini marocchine, ha un lato intanto molto più maturo e poi è riuscito a trovare un certo equilibrio tra magari le cose in cui crede e la sua fede e poi il suo posto nel mondo, quindi questo equilibrio lo caratterizza, direi. E durante la stagione giustamente farà l'incontro del personaggio di Sana, con il quale avrà una relazione molto particolare, perché giustamente, a differenza magari di altre serie che ho potuto vedere prima, hanno questo rapporto in cui la loro relazione non viene consumata, è una relazione fatta di sguardi, fatta di tensione emotiva, di tensione anche amorosa, e questa cosa mi è molto piaciuta nel personaggio. Che ne hai fatto? Come non esci più a ricreazione? No, che in questi giorni ho un sacco di cose da studiare, quindi preferisco stare in classe. Ah, vabbè, pure io, ma tanto la De Palma mi odia, quindi non dire che studi. Senti, stavo pensando una cosa. Che dici se dopo la Grecia ce ne andiamo un weekend in montagna da me? Niente ragazzi, niente casini, siamo solo noi cinque come i vecchi tempi. Grazie, è un gesto molto carino. Tanto i tuoi non dovrebbero fare problemi, no? Perché dovrebbero? Non lo so, avevo capito che per la Grecia avevano fatto un po' di problemi. Quando l'hai capito, scusa? Perché dovete sempre tutti pensare che i miei vi impediscono di fare le cose? Torniamo a lei, alla sua biografia. Lei, dicevamo, nasce a Reggio Calabria, ha 25 anni e poi è cresciuto in provincia di Treviso. Di che nazionalità sono i suoi genitori e che tipo di influenza hanno avuto e hanno avuto le sue radici nella sua crescita? Ci consideriamo tutti italiani, di origine siamo marocchini e sicuramente queste origini mi hanno sicuramente arricchito molto. Io devo dire ho molta stima anche per i miei genitori, perché so che fare questo percorso anche in cui uno cambia paese, magari questo dovrei chiederlo più a mio padre, ma che cambia un paese anche per credere in un futuro migliore e dare un futuro migliore ai suoi figli, quindi questa cosa mi ha permesso anche di essere più aperto. Per esempio, io stesso a Montebelluna ho fatto le elementari in una scuola cattolica, anche se i miei genitori magari sono musulmani, perché la cosa importante per loro è stata davvero aprirsi al mondo e permettere di conoscere l'altro, ed è forse questo che mi ha permesso questa doppia, diciamo, nazionalità, è quella di essere più aperto e più pronto magari di conoscere l'altro, ma sì, forse questo. Le mie amiche, quando guardano il mio velo, alla fine sotto sotto pensano sempre male. Io non penso male. Se ti dicessi che per me portare il velo è una scelta femminista, tu che mi dici? Te lo dico io. Pensi che sono pazza e che il velo è solo una cosa bigotta che mortifica le donne? Che ne sai tu di quello che penso io? Perché pensate tutti la stessa cosa. Cioè che sono una sottomessa, una che viene oppressa dai propri genitori. E se anche vi dico che nessuno mi costringe a mettere il velo, perché è una mia scelta, che è una mia scelta arrivare vergine al matrimonio, voi pensate che mi hanno fatto il lavaggio del cervello? Mio padre ha sempre fatto l'operaio per diverse aziende e poi la sua grande passione è la pittura, quindi comunque continua anche la pittura. E mia madre è assistente sociosanitaria, ha fatto questo per molti anni e adesso lavora in un'azienda, cioè all'accoglienza di un'azienda, diciamo. Come hanno recepito la sua ambizione di diventare un attore, che è un percorso un po' difficile, molto ambizioso, un percorso artistico, non un percorso di tipo pratico? Mi hanno sempre dato molto amore, mi hanno sempre detto che io potessi fare quello che volevo, diciamo. Sicuramente c'è un po' di paura, perché sono mestieri che giustamente richiedono anche una grande fortuna, bisogna dirlo. Sono stato molto fortunato nella mia vita di aver trovato persone che mi hanno anche dato opportunità in questi ruoli che ho avuto l'opportunità di fare, e poi anche questo bel arrivo in SCAM in Italia. Quindi è un mestiere in cui ci vuole molta fortuna, secondo me. Quindi questo forse i miei genitori hanno ancora un po' paura per me nel futuro, però devo dire che adesso sono sempre più fieri e mi sostengono al massimo. E come è stato crescere in provincia di Treviso? Devo dire che sono stato fortunato, i miei amici, ce ne sono alcuni con i quali ancora ho un legame, nonostante vivo in Francia da 10 anni, e mi sono sentito molto integrato, comunque, anche perché, come dicevo, anche grazie ai miei genitori che mi hanno permesso di fare già dalla mia infanzia un cammino per essere in un incontro tra le culture, mai in una distanziazione. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. E poi a 15 anni ha deciso di trasferirsi a Parigi. Era molto giovane, come mai questa decisione così radicale? Beh, è stata una decisione familiare, ovviamente, nel senso non sono andato io da solo a Parigi, però è stata anche una decisione comune. Quindi con tutta la famiglia siete andati a Parigi? Esatto, sì, ci siamo trasferiti tutti insieme. Per questioni economiche, immagino, per un altro lavoro, per trovare altri lavori? Ma in realtà no, non era per trovare un altro lavoro. Penso ci sia stata una voglia anche magari di provare altro, cioè di ricominciare, non direi da zero, però nel senso ricominciare qualcos'altro. Io avevo comunque della famiglia, dei parenti qua a Parigi, quindi comunque è stato più facile, diciamo, l'arrivo qua. Però sicuramente sì, per quanto riguarda il mestiere dell'attore, 10 anni fa arrivare a Parigi era anche magari avere più opportunità, perché nel sistema audiovisivo francese già 10 anni fa vedere attori di seconda generazione era un po' più normale, quindi sicuramente sì, mi ha aperto delle porte nel mestiere che oggi faccio. E per quanto riguarda il mestiere che lei fa, quello dell'attore, ci sono più possibilità oggi in Italia o in Francia? Ma io devo dire, credo che ancora oggi ci siano più opportunità in Francia, nel senso, per esempio, Scam è un passo in avanti sicuramente, ma ancora di provini ne faccio in Italia, però ne faccio molti meno che in Francia. Sto sentendo comunque un passo in avanti che viene fatto piano piano anche dalla produzione e dalla televisione italiana. Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mood, dai. Dei tuoi bla bla, voglio stare in good time, voglio stare in good time. Bella atmosfera, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici, no, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche per quei fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down. Grazie, down, grazie down, per essere stato con noi questa sera, per averci raccontato la sua partecipazione a questa serie Scam Italia 4, che consigliamo a tutti gli ascoltatori. Buona serata. Grazie, grazie a lei, buona serata. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bella atmosfera. Da Valentina Furlanetto è tutto, una buona serata e una buona domenica. A sabato prossimo, ciao!